Focus Economia. Con Simone Spezia. Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, buonasera da Simone Spezzi e benvenuti a questa nuova puntata di Focus Economia. Già prima che iniziasse la trasmissione, mandate messaggi su Barisoni, non vi preoccupate, torna domani. I temi di oggi, naturalmente torneremo a parlare di politica economica. Oggi c'è stato il Consiglio dei Ministri, come sapete, sono due le questioni sul tavolo. Innanzitutto la dismissione di una serie di quote di aziende pubbliche. Tra i 10 e i 12 miliardi circa dovrebbe incassare lo Stato. E poi la questione fiscale. C'è un nuovo rinvio per quanto riguarda la seconda rata dell'IMU, o meglio il saldo, insomma la cancellazione del saldo dell'IMU, con il risultato che si arriverà a un Consiglio dei Ministri martedì e che quindi martedì, per ora noi abbiamo solo le rassicurazioni, quindi finché non vediamo il provvedimento non siamo convinti, martedì a 18 giorni dal pagamento della seconda rata IMU sapremo se pagheremo la seconda rata IMU oppure no. Quindi queste sono le due questioni di politica economica di queste ore. C'è una questione invece di politica economica europea che affronteremo oggi. È tornato a parlare il commissario agli affari economici e monetari Olli Rehn, facendo qualche precisazione e qualche apertura, a dir la verità, in merito alla possibilità per l'Italia di liberare una parte di risorse per gli investimenti rimanendo sotto il 3%. Dipenderà, ha detto, dalla famosa spending review, ossia revisione della spesa. E poi c'è stato l'intervento di oggi di Mario Draghi, il presidente della Banca Centrale Europea, che respinge le accuse di favorire alcuni paesi e dice non c'è alcun rischio di deflazione. Questo per quanto riguarda la politica economica italiana e quella europea, o meglio quella della Banca Centrale. Però oggi è anche la giornata degli Stati Generali della Cultura, organizzati dal Sole 24 Ore. Tra poco, tra l'altro, dovrebbe intervenire il Presidente del Consiglio, Enrico Letta. Ne parliamo perché parliamo di cultura non solamente perché siamo in casa nostra, perché la cosa è organizzata dal Sole 24 Ore insieme alla Fondazione Roma, ma perché la cultura in realtà può essere un pazzesco volano di crescita. Cultura intesa in senso lato, naturalmente, non solamente il nostro patrimonio artistico e culturale è così scarsamente sfruttato, ma tutto quello che c'è intorno. Il nostro Made in Italy fa parte della nostra cultura, la nostra cultura industriale, del design, della moda, è tutto parte della nostra cultura, e quindi forse ci vuole un pensiero complessivo su tutto questo, e su questo, a questo si è richiamato, avete sentito l'editoriale nelle nostre edizioni del giornale radio del direttore del Sole 24 Ore, Roberto Napoletano. Sentiremo anche che cosa ha da rispondere Enrico Letta su questo, e poi incontreremo un professore di Harvard col quale abbiamo fatto una chiacchierata proprio sul tema della cultura, come valorizzarla e come farne uno strumento di crescita. 349-238-6666 per i vostri sms, se volete mi potete anche scrivere su Twitter, Simone Spetia, si scrive con la T, le notizie in breve di oggi. Naturalmente non vi ho dato i mercati, lo avete sentito e adesso ve lo dico. Positivi di mezzo punto percentuale, FTSE All Share più 0,48, FTSE MIB più 0,57. In un quadro europeo che è peggiore, Parigi cede lo 0,27%, Francoforte lo 0,01%, va bene invece l'America con il Dow Jones che guadagna mezzo punto percentuale. Il Nasdaq lo 0,83%, l'euro che quota 1,34,58 contro dollaro. Il petrolio WTI, quello quotato a New York con consegna a gennaio, un più 1,32%, 95,09 dollari al barile. Il Brent più 0,73%, a 108,8 dollari al barile. E oro in calo dell'1,2% a 1238 dollari l'oncia. Abbiamo parlato della Banca Centrale Europea, parliamo della Banca Centrale Giapponese che ha deciso di lasciare invariati i tassi e la politica monetaria, del resto insomma, i tassi sono a zero, e ha ribadito il suo giudizio sull'economia nipponica dicendo che sta recuperando moderatamente. La Banca Centrale Giapponese ha anche votato all'unanimità la conferma delle operazioni sui mercati per aumentare la base monetaria al ritmo annuale di 60-70 mila miliardi di yen. Al cambio attuale sono 440-520 miliardi di euro. Il ministro delle finanze tedesco Wolfgang Schäuble, oggi a Berlino, dice che la Banca Centrale Europea non può risolvere la crisi dell'Eurozona da sola. E dice che la BCE non può riparare i deficit dei paesi, spetta ai governi farlo. È un'illusione pensare che la politica monetaria possa creare una crescita sostenibile. Ha sottolineato che il mandato della BCE è strettamente limitato e deve rimanere così. Mario Draghi, per conto suo, come si diceva, dice che non c'è un rischio di deflazione. Con la ripresa ci attendiamo che l'inflazione ritorni vicina al 2%. E però potremmo vedere un periodo prolungato di bassa inflazione. Questo è importante, come sapete, dal punto di vista della politica dei tassi, perché il mandato preciso della Banca Centrale Europea è di tenere l'inflazione come parametro, insomma, per le sue decisioni di politica monetaria intorno al 2%. Come si diceva, Draghi dice che è profondamente scorretto accusare il Consiglio della BCE di agire a vantaggio di uno o più paesi. Il nostro agire si basa su considerazioni economiche e opera nell'interesse di tutti. Parla anche Angela Merkel sul famoso surplus della Germania. Il nostro squilibrio nell'Eurozona è molto molto piccolo, dice, inferiore al 3%. Questo dimostra che abbiamo una situazione molto equilibrata. In realtà né Bruxelles, che su questo ha quantomeno aperto un'indagine, quindi qualche sospetto almeno ce l'ha, né il Dipartimento di Stato americano la pensano così. Dice Merkel che a volte sorprende il tenore di certe discussioni sul troppo rigore della Germania. Il discorso lo conoscete, cioè il fatto che la Germania dovrebbe un po', per così dire, allargare i cordoni della borsa, stimolare anche la domanda interna per far sì che le economie cosiddette periferiche crescano di più. Dice Merkel: abbiamo un debito a circa l'80% a fronte di un obiettivo nei trattati al 60%, non facciamo altro che lavorare per rientrare in circa 10 anni nei parametri ai quali siamo vincolati. Olli Rehn intanto però respinge le critiche tedesche, queste critiche tedesche. Dice: non abbiamo mai detto che volevamo rendere più deboli i paesi forti, non è quello che stiamo facendo, dirlo significa parlare a vuoto. E insiste: la Germania deve rafforzare la domanda interna con un sostenibile aumento delle retribuzioni e riducendo le tasse per le famiglie più deboli. Ancora Rehn: dobbiamo continuare il consolidamento delle finanze pubbliche, ma visto che negli ultimi due anni gli squilibri si sono dimezzati, ora possiamo rallentare. E ancora, per Italia e Finlandia c'è il rischio di inosservanza delle condizioni macroeconomiche. Questo in un'audizione al Parlamento europeo. E ha detto ancora Rehn, insomma, appunto, che qualche margine c'è per l'Italia se attua bene la spending review, la revisione della spesa. Dice Letta che le risorse che arriveranno dovranno andare ad un'ulteriore riduzione delle tasse sul lavoro. Sentiamolo. Sulla spending review ci giochiamo molto del lavoro prossimo. soprattutto perché abbiamo valutato e deciso che le risorse che saranno trovate attraverso appunto la spending review saranno risorse finalizzate a tre grandi obiettivi, e i tre grandi obiettivi sui quali vogliamo indirizzare quelle risorse sono un ulteriore carico di riduzione delle tasse sul lavoro, è il primo grande obiettivo, e la maggior parte delle risorse che dalla spending review verranno andranno a riduzione delle tasse sul lavoro. In secondo luogo, alcuni investimenti produttivi mirati, di spesa pubblica anche. Ci sono alcuni temi sui quali sapete c'è sempre stata da parte nostra la sensibilità e il tentativo di rovesciare, di avere un'inversione di tendenza. Sono i temi della ricerca, dell'educazione, della cultura, alcune spese sociali sulle quali è necessario che ci sia un'inversione di tendenza, più altri investimenti produttivi che sono necessari da fare per il nostro Paese, e naturalmente una quota andrà a riduzione anche di debito e deficit per continuare quel processo di riduzione che è assolutamente necessario. A proposito del taglio della spesa, parla il commissario straordinario per la revisione della spesa, Carlo Cottarelli. Sarebbe opportuno fare come in Inghilterra, dove c'è solo un'auto blu per il ministro. Lui l'ha rifiutata. Io vado in giro a piedi, avrò le scarpe blu e ci guadagna la salute. Parla anche di revisione di lavoro su stipendi e pensioni d'oro. Sono un problema importante, dice. La domanda rimane quella se il paese si può permettere di pagare pensioni molto elevate. Bisogna lavorarci con attenzione, aggiunge, perché ci sono problemi di costituzionalità. Un dato interessante diffuso oggi dal sottosegretario alle infrastrutture e ai trasporti Erasmo D'Angelis. Oggi è il terzo giorno di protesta a Genova contro l'ipotesi di privatizzazioni. Ieri abbiamo ospitato il sindaco Doria, come sapete. E tra queste privatizzazioni c'è quella ipotizzate, c'è quella dell'azienda del trasporto locale. Dice D'Angelis, oltre il 40% delle aziende, quelle del trasporto locale, delle 1150 presenti, può portare i libri in tribunale perché sono tecnicamente fallite, morte. Ed eccoci a quello che è il primo tema di giornata, ossia il Consiglio dei Ministri. Non abbiamo gli spazi proprio tecnicamente per poter ospitare un appuntamento come abbiamo fatto nei giorni scorsi per quanto riguarda la situazione della Sardegna, però insomma vi è stato promesso che non sarete lasciati soli. La notizia di oggi riguarda tra l'altro la legge di stabilità. Ammontano al momento a poco più di 103 milioni i fondi stanziati per la Sardegna, a cui vanno aggiunti quelli non quantificati relativi all'ANAS. Naturalmente solamente un primo stanziamento che entra già nella legge di stabilità grazie ad un emendamento dei relatori approvato in commissione bilancio. Il Consiglio dei Ministri di oggi. C'erano molte aspettative, perché doveva esserci un decreto sulla rivalutazione delle quote della Banca d'Italia e sull'IMU, sull'eliminazione della seconda rata. Sono slittati. Letta assicura che la seconda rata non sarà pagata perché è un impegno preso. Resta tra l'altro il nodo dei terreni agricoli. Ci sarà l'esenzione sui fabbricati rurali. E poi al via la cessione di quote societarie dello Stato per 10-12 miliardi, metà per ridurre il debito, metà per la ricapitalizzazione della Cassa Depositi e Prestiti. Ma a proposito di IMU, c'è un'altra notizia che ci ha incuriosito, perché riguarda il solito tema. Il tema non è in questo caso la quantità di tasse, ma la certezza delle tasse, la certezza fiscale. Parliamo della consulta dei CAF, che ha deciso di fissare al 15 novembre il termine per stabilire le delibere da prendere a riferimento per il pagamento del saldo IMU. Non è possibile aspettare ancora le delibere dei comuni, ed è comprensibile, lo capisco, per chi opera, per chi fa assistenza fiscale è perfettamente normale. Valentino Canepari, coordinatore della consulta CAF, buonasera, benvenuto. A lei e ai telespettatori. Radioascoltatori in questo caso, comunque va bene. Allora Canepari, non si può più aspettare? Noi siamo in grande difficoltà perché la gente comincia già a chiederci gli F24 per andare in posta per pagare, perché non è che si possa fare semplicemente, devono passare da chi gli fa il conteggio e poi devono andare in posta, e quindi insomma è un processo, non dico complesso, ma però che va gestito nei tempi congrui. Alla base della nostra presa di posizione c'è che noi avremo certezza delle aliquote il 9 di dicembre con la scadenza al 16. In 5 giorni non è possibile assistere quelli che noi stimiamo, perché li abbiamo assistiti a giugno, e quindi questi sono contribuenti che dovranno pagare la seconda rata perché hanno seconde case o altre situazioni con cui devono fare il conto col pagamento. E noi abbiamo fatto il conto, sono 5 milioni di persone. 5 milioni in 5 giorni è umanamente impossibile. Certo. E quindi si creerebbe un grande disagio, poi devono andare a pagare l'F24. Quindi noi abbiamo fatto un ragionamento, dopo che un mese fa avevamo posto il problema e dopo che una settimana fa avevamo scritto all'ANCI e al Ministro dell'Economia, abbiamo detto noi quello che possiamo fare per non creare disagio è definire un termine a riferimento per il carico delle delibere nei sistemi gestionali informatici, perché poi queste cose vanno fatte attraverso sistemi informatici, non è che viene così semplicemente. E quindi noi abbiamo fissato questo termine. Le delibere che ci sono ad oggi, che sono circa 4.000 su 8.000, noi le abbiamo prese, caricate nei sistemi e possiamo assistere i contribuenti. Dopodiché per quei comuni che non hanno deliberato, noi prenderemo a riferimento le delibere del 2012, le aliquote del 2012. Tra l'altro, scusi Canepari, rischiando in questo modo in realtà di pagare o di meno o di più, quindi di trovarsi anche in torto col fisco eventualmente. Sì, esattamente, qui c'è un rischio, ma se nessuno risponde, se nessuno decide qualcosa, il problema si scarica su noi e sui contribuenti. Noi daremo anche un volantino ai contribuenti spiegando la situazione. Dopodiché un rischio c'è, certo, ma se nessuno ci dà risposta, una decisione noi per il nostro lavoro e alla gente la dovremmo dare. Questa ci sembra la risposta più equilibrata. Primo, perché la differenza economica, se anche i comuni modificassero le aliquote, non sarebbe un importo che mette in crisi e il contribuente e il comune, che non si vede arrivare soldi in maniera consistente. Secondo, c'è la possibilità di fare il conguaglio a giugno per importi modesti e quindi i contribuenti assolvono senza difficoltà, i comuni hanno l'incasso nei tempi previsti, ci sarà un piccolo conguaglio. Ecco, noi abbiamo ragionato su questa modalità, anche perché non potete probabilmente fare altro. Guido Gentili, editorialista del Sole 24 Ore, ciao, buonasera. Ciao, buonasera a voi. Poi ti interpellerò invece su queste dismissioni annunciate da Letta e Saccomanni, però devo dirti su questa questione è veramente una situazione assurda. Questo è sempre il paese che ha deciso 2 giorni prima che l'IVA sarebbe salita di un punto percentuale, però siamo ancora qua, cioè manca nemmeno un mese al pagamento della seconda rata IMU e non abbiamo la minima certezza. Questo purtroppo è frutto, diciamo, di un dato storico, perché questo è un paese che in quanto a certezza del diritto è molto, purtroppo molto indietro rispetto a altri paesi cosiddetti normali. E al dato storico si aggiunge una contingenza politica per la quale pare che in questi ultimi mesi, solo attraverso un rinvio che si aggiunge a un altro rinvio, si riesce ad andare avanti a governare questo paese. E quindi questa è la grandissima difficoltà nella quale ci troviamo, e creando, ed è anche uno dei motivi per cui poi si crea anche sfiducia da parte dei cittadini. Buonasera da Simone Spezia, potete scriverci al 349-238-6666 oppure mi trovate su Twitter Simone Spezia. Allora, c'è una cosa che ho omesso di dirvi e che crea una certa preoccupazione dal punto di vista fiscale, ossia che il pagamento degli acconti viene spostato dal 30 novembre al 10 dicembre. Ora, il solito discorso: a pensar male si fa peccato, però ci si azzecca, o almeno ci si potrebbe azzeccare. L'idea che la copertura di questa seconda rata IMU arrivi da un ulteriore aumento degli acconti fiscali, ve la lascio là, commentate voi. Veniamo alla questione privatizzazioni. Sono 8 società interessate, privatizzazioni, dismissioni di quote in realtà. Eni, STM, ENAV per le partecipazioni dirette, SACE, Fincantieri, CDP Reti, TAG, grandi stazioni per quanto riguarda la CDP, la Cassa Depositi e Prestiti. Questa operazione dovrebbe far entrare tra i 10 e i 12 miliardi di euro nelle casse dello Stato. Sentiamo Enrico Letta. Il rinvio è esclusivamente dovuto al fatto formale, cioè al fatto che i due provvedimenti devono andare in parallelo, perché sono, come sapete, le banche che saranno toccate da entrambi i provvedimenti, l'uno che assegnerà una rivalutazione delle quote, quindi delle risorse, e l'altro con il quale invece si aumenteranno gli acconti per banche e assicurazioni, acconti da pagare entro quest'anno sul 2014, quindi i due provvedimenti devono andare in parallelo. E quindi il fatto che sul tema della rivalutazione delle quote di Banca d'Italia fosse necessario il parere della Banca Centrale Europea, della BCE, il parere della BCE arriverà nelle prossime ore, ma prima dell'arrivo del parere della BCE non è possibile finalizzare questo provvedimento. E questo è Enrico Letta, però, come avete sentito, sulla questione IMU, rivalutazione delle quote. Invece vogliamo sentire quello sulle privatizzazioni. Via! È un'operazione che nei nostri calcoli dovrebbe far entrare tra i 10 e i 12 miliardi di euro, di cui riteniamo la metà possa andare a riduzione immediata del debito pubblico nel 2014, e una metà, siccome si tratta in parte di operazione della Cassa Depositi e Prestiti, andrà a ricapitalizzazione della Cassa stessa. Questo è un pacchetto di privatizzazioni abbastanza agevole dal punto di vista delle scelte che si fanno, e anche rapido. Contiamo che tutto questo l'anno prossimo possa dare i suoi risultati. Abbiamo intenzione poi di fare un'altra nei mesi prossimi, ma su questo ovviamente apriremo un dibattito sia con le forze politiche sia con le parti sociali, di aprire una discussione su altri soggetti rispetto ai quali è necessario che invece l'approfondimento e l'analisi, la valutazione politica abbia bisogno di un'istruttoria maggiore, ma lo vedremo nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Nel frattempo questo è il primo pacchetto che abbiamo deciso di mettere sul mercato, con l'obiettivo per l'appunto di avere l'anno prossimo questa riduzione del debito che ci consenta di ottenere quei margini di flessibilità in più dalla Commissione europea per utilizzare quelle risorse con gli investimenti produttivi che noi vogliamo assolutamente fare. Allora, Guido Gentili del Sole 24 Ore, abbiamo sentito Letta, che ti sembra un programma timido, ambizioso, una cosa media? Allora, prima una notazione di metodo, cioè Letta ha fatto queste dichiarazioni a mercati di borsa aperti, ho visto, adesso non l'ho seguito negli ultimi minuti, ma insomma c'era stata anche un po' sul titolo Eni, per esempio, interessato a questa operazione, diciamo c'è stato un po' di c'è stato qualche problema, e diciamo questo manifesta anche la necessità evidentemente di accelerare quanto più possibile gli annunci su questo tema, perché credo che domani sia in calendario una riunione dell'Eurogruppo dove il governo tornerà ad insistere sulla possibilità di utilizzare quel bonus di 3 miliardi di euro che al momento la Commissione europea ci ha negato perché abbiamo dei problemi appunto sul debito, e il riferimento è quello a quello che ha detto proprio che abbiamo ascoltato il Premier Enrico Letta prima. Quindi però sull'onda di una nuova piccola emergenza dal punto di vista degli annunci. E nel merito 10-12 miliardi sono sulla carta, sono tantissimi ovviamente, sono un po' meno se poi andiamo a vedere che sono divisi, come ha spiegato il Premier, circa 6 miliardi come gettito delle dismissioni, e 6 miliardi invece tornano alla cassa dei prestiti per ricapitalizzarli. Ora 6 miliardi destinati alla riduzione di un debito che ammonta, se non ricordo male, a 2068 miliardi di euro sono veramente una goccia nel mare. Quindi sperare che da questo punto di vista, con l'annuncio, perché di annuncio si tratta, l'operatività di questa operazione la vedremo nei prossimi mesi, sperare che sulla base di questo ci sia un capovolgimento della situazione in Europa mi sembra difficile. In seconda battuta poi Letta ha fatto riferimento a un tema della discussione con le forze politiche per altre operazioni più importanti che potrebbero arrivare nel futuro, ma credo che questa discussione però è già cominciata adesso per quello che ha annunciato nella giornata di oggi, perché dal PD in particolare mi sembra siano arrivate parecchie riserve su questa operazione e richieste da parte dei deputati renziani, se non ricordo male, di discutere immediatamente questa materia in Parlamento. Ricordo che su questo tema, anche quando si cominciò a parlare dell'operazione nell'estate, ci fu un intervento del vice ministro Fassina, anche lui del PD, che disse no a queste operazioni. Quindi io credo che questo, da passare tra il dire e il fare, anche in questo caso non sarà semplicissimo. Questo sicuramente, sì, in effetti insomma si sta già addensando un po' di tensione quando si parla di privatizzazione in questo paese, è sempre così. L'ascoltatore che ci dice: possibile che siate sempre solo critici, che le devo dire? È il nostro mestiere, insomma, no? È là che dobbiamo andare a scavare, nelle criticità, se no ci mettiamo a fare le trombette dei governi di qualsiasi colore siano e non ne usciamo più. Secondo te, proprio dal punto di vista della prospettiva politica, Guido, adesso stiamo identificando le difficoltà, sì. Ti chiedo una sorta di mossa da indovino, come andrà a finire? Su questo terreno delle privatizzazioni? Sì. Io credo che ragionevolmente ci potrebbe essere lo spazio per fare qualche operazione, se pensiamo ad esempio alla Fincantieri, alla SACE, Grandi Stazioni, ENAV, non una totale privatizzazione, perché non stiamo parlando di questo, ma di una parziale privatizzazione, sarebbe un passaggio utile, perché si inserirebbero degli elementi di concorrenza, di cultura del mercato in queste aziende, e quindi sarebbe questo un passaggio positivo. Possiamo ragionevolmente aspettarci, se se il governo insisterà con decisione su questo tema, evitando di fare quello che abbiamo visto invece dal lato, diciamo, dei provvedimenti fiscali, quindi con questa sorta di stop and go continuo. Ecco, se il governo tira dritto per la sua strada, deciso, può portare a casa questo risultato, che però, appunto, ripeto, non va salutato come, diciamo, la soluzione di ogni problema realisticamente. Quindi l'importante è rimanere, diciamo, con i piedi per terra e fare i passi che sono necessari, senza che questo però, diciamo, significhi aspettarsi chissà che cosa. Allora, prima ancora di andare ai mercati con i colleghi di Radio Cori, Il Sole 24 Ore, e di capire come sono andate le cose oggi, voglio farvi sentire quest'audio. È un audio di Marco Fossati, socio di Telecom con una quota del 5% attraverso Findim, che, intervistato alla web TV del Fatto Quotidiano, l'erede della famiglia ex proprietaria dei dati Star, racconta questo episodio. Avevamo 0,5 di Apple quando ancora prima doveva partire l'iPhone, perché credevo in quello che era l'ecosistema, e quello è il futuro, voglio dire. E purtroppo la domanda, perché l'abbiamo venduto, facendo un poco di profitto evidentemente, abbiamo a nostro malgrado dovuto venderlo, in quanto questo investimento ci ha distratto molto le nostre risorse e si è connuto ammazziato. Credo che l'Italia abbia ancora delle potenzialità. E solo credo bisogna cominciare a esprimere queste potenzialità non solo con delle intenzioni, ma con i fatti. Bisogna cominciare dal basso a cambiare le cose in maniera molto concreta, con molta calma, con molta parsimonia, ma voglio dire con determinazione. Da mangiarsi le mani. Allora, Telecom Italia negli ultimi 5 anni, prendiamo solo gli ultimi 5 anni, che è il grafico che abbiamo sotto mano. No, scusate, Apple negli ultimi 5 anni ha guadagnato il 455%. Disinvestire da Apple per andare in Telecom, terribile. La borsa. Ceo Condina, Radio Cori, Sole 24 Ore, buonasera. Ciao, buonasera a tutti. L'hai sentito Fossati? L'ho sentito, penso lui che ha questa alternativa. Su questo non c'è dubbio. Senti, giornata com'è stata oggi? Ma sostanzialmente in colore, una giornata in cui, insomma, è stata dominata essenzialmente da quello che ha detto la Federal Reserve ieri sera, cioè che il tapering, questo cosiddetto, appunto, l'inizio di una restrizione della politica monetaria attualmente molto generosa, inizierà nei prossimi mesi, quindi non molto di nuovo rispetto a quello che si sapeva già. Oggi un po' di dati macro americani, con i sussidi di disoccupazione che comunque sono arrivati ai minimi da settembre, e questo lascerebbe intendere che la Fed possa accelerare, appunto, in questo tapering. Però tutto sommato una giornata in colore, un po' nervosa, listini che hanno recuperato un po' nel pomeriggio grazie al buon avvio di Wall Street, ma poi Francoforte e Parigi chiudono leggermente negativi, bene invece Milano che fa più 0,6% grazie soprattutto ai rialzi delle banche. Per quanto riguarda, insomma, oggi il titolo più in luce di tutti è sicuramente la Roma Calcio. Diciamo fuori dal listino principale, dal FTSE MIB, c'è sicuramente la Roma che fa più 10% dopo le indiscrezioni pubblicate da Sole 24 Ore del possibile interesse di un magnate cinese, Wang Jianlin, che è forte di un patrimonio di oltre 10 miliardi di dollari, per rilevare l'attuale quota di minoranza che Unicredit ha ancora nella Roma. Quindi sostanzialmente è un'acquisizione che potrebbe essere anche leggermente a premio sulle quotazioni della Roma, che già sono cresciute molto nelle ultime settimane, che ha galvanizzato il titolo sul mercato. Bene Salvatore Ferragamo, più 2,91%, A2A più 2,75%, cosa è successo? Ma qui è un titolo che la settimana scorsa era insomma aveva perso abbastanza, era arrivato a 0,9 euro, poi aveva ritracciato fino alla soglia dei 0,8 euro. Poi piano piano nelle ultime ore, negli ultimi giorni, sta accelerando la riforma della governance della società da parte dei due soci di controllo, ovvero il Comune di Milano e il Comune di Brescia, una riforma della governance che porterà all'abolizione del duale, A2 era una delle ultime società che ancora conservava questo sistema di governance, all'adozione di un sistema tradizionale che dovrebbe poi portare a un efficientamento ulteriore di quello che è il funzionamento della governance, anche chissà magari all'interesse di alcuni investitori istituzionali. Complessivamente positive le banche: Intesa San Paolo più 2,3, Unicredit più 2,04, Bibanca più 1,9, Banco Popolare 1,5, Popolare di Milano 1,46. Ci sono motivi particolari? Ma c'è uno spread molto stabile sui 230 punti base oggi, comunque una buona giornata per le banche, soprattutto in Italia, non ci sono motivi particolari comunque. Bene anche Pirelli più 1,44. E qui ci sono essenzialmente due fattori: da una parte c'è la banca d'affari HSBC che prevede in un report che ha pubblicato oggi un rimbalzo del settore degli pneumatici in tutta Europa e in particolare per il segmento premium. Come ben sappiamo la nuova strategia di Pirelli è quella di concentrarsi appunto su questo settore, quindi a maggior ragione HSBC alza la raccomandazione sul titolo Pirelli, migliora il giudizio appunto. In più, poi, come sappiamo, ieri c'è stata l'annuncio di un'uscita quasi totale di Benetton dal capitale di Pirelli. Il patto di sindacato che bloccava buona parte dell'azionariato di Pirelli è stato sciolto recentemente, quindi gli operatori si attendono nuovi movimenti nell'azionariato, possibili riassetti, e quindi, come spesso accade in questi casi, il titolo ne viene galvanizzato. Giù Mediaset un 3,61% ha perso oggi, come mai? Ma un po' di realizzi, non c'è un motivo particolare, che nella prima parte della seduta perdeva lo 0,6%, lo 0,8%, poi nel pomeriggio le perdite si sono accentuate, ricordiamo che comunque siamo di fronte a un titolo che ha più che raddoppiato il suo valore negli ultimi tempi. Senti, Eni ha lasciato sul terreno lo 0,44%, abbiamo parlato poco fa della questione delle privatizzazioni, anche se naturalmente non c'è ancora niente di effettivo sul piatto, per il momento siamo naturalmente agli annunci, però non abbiamo motivo di dubitarne. Beh, in genere quando si mette sul mercato una quota così rilevante come il 3% di un'azienda, l'azienda dovrebbe crescere, o mi sbaglio io? Dipende dai casi, però essenzialmente comunque quando c'è un collocamento privato di una quota c'è anche il titolo a volte scende anche, ci sono ad esempio i famosi accelerated book building, che sono dei collocamenti che vengono effettuati sul mercato in poche ore, che spesso vedono poi il titolo sul mercato perdere leggermente il giorno dopo il collocamento, anche perché spesso il collocamento avviene leggermente a sconto rispetto al prezzo di borsa. Anche perché è un blocco di azioni rilevante. Quando si va a cedere un 3% di Eni, poi Saccomanni ha parlato di un introito di 2 miliardi di euro, mettere sul mercato una partita di azioni così rilevante inevitabilmente fa un po' scendere il titolo. Qui, come è stato spiegato, il meccanismo è un pochino più complesso e forse è stato architettato un meccanismo non così lineare anche per evitare proprio questo effetto qua. In particolare Eni acquisterà azioni proprie, poi le annullerà, cioè farà aumentare la partecipazione del tesoro dal 30 al 33 e quindi lo metterà in grado di vendere il 3%. Eccoci di nuovo, buonasera da Simone Spezia, bentornati per la seconda parte di Focus Economia. Tra poco verremo, vi ha riferito anche la nostra Alessandra Tedesco nel corso dei giornali radio, di quello che sta succedendo proprio qua accanto, nella sede del Sole 24 Ore, qua sotto, con l'intervento del Presidente del Consiglio, Enrico Letta. Agli Stati Generali della Cultura, Letta dice a Squinzi: decidiamo insieme sulla spending review, sul taglio della spesa, possiamo decidere insieme le modalità di allocazione di queste risorse. Parla di un ingente credito d'imposta sulla ricerca, come richiesto da Squinzi. poi c'è quest'idea di creare una capitale italiana della cultura. Ogni anno, una capitale italiana della cultura, ogni anno, che cambia ogni anno. Veniamo alle vicende europee e tedesche. Alessandro Merli, corrispondente a Francoforte del Sole 24 Ore. Ciao, buonasera. Sì, buonasera a voi. Ne parliamo perché oggi sono arrivate una serie di notizie, a partire, o di dichiarazioni per meglio dire, a partire dalla presenza di Mario Draghi ad un incontro economico organizzato dalla Süddeutsche Zeitung a Berlino, nel quale Draghi insiste sul fatto che non ci sia rischio di deflazione nell'Eurozona, parla di un possibile periodo prolungato di bassa inflazione, però come sapete questo è importante dal punto di vista delle decisioni sui tassi, perché risponde al preciso mandato della Banca Centrale Europea, e dice che il taglio dei tassi facilita il riequilibrio interno dell'Eurozona. È interessante come ci siano alcune convergenze, per così dire, su come si sta comportando la Banca Centrale Europea anche da parte di Bruxelles. È Olli Rehn a dire oggi che la BCE ha svolto il ruolo da vera banca centrale. Allora, Alessandro, forse però Draghi vorrebbe e potrebbe fare di più? Ma Draghi ha detto, come hai sottolineato, che non c'è una deflazione in corso, ha parlato di disinflazione alla moviola, disinflazione al rallentatore, però è consapevole che l'inflazione sta andando nella direzione, si sta allontanando dall'obiettivo della BCE e non avvicinando, è per questo che la BCE ama ripetere che ha tutte le opzioni sul tavolo, eccetera. Però Draghi ha anche ricordato che non può essere solo la BCE a fare tutto il lavoro in Europa, perché può promuovere un ambiente macroeconomico stabile, può cercare appunto di evitare la deflazione, ma poi alla fine altre mosse, diciamo, devono essere fatte da altri, cioè dai governi, cioè dalle imprese, e quindi su questo la BCE ha poco che possa fare. Tra l'altro, ha anche spiegato perché ha fatto questo taglio dei tassi, visto che c'erano state un po' di critiche. E ha detto: guardate, lo stato dell'economia giustificava ampiamente il taglio dei tassi che abbiamo fatto a novembre, il che non vuol dire che ne faranno un altro a dicembre, anzi credo che la BCE si prenderà una pausa. Tra l'altro, il discorso sul fatto che la BCE non può fare tutto è un discorso ripreso oggi anche dal ministro delle finanze tedesco Wolfgang Schäuble, che è quello che i tedeschi sostengono da sempre, a dire il vero. Dice: la BCE non può riparare i deficit dei paesi, spetta ai governi farlo. E poi una nuova chiusura, ma insomma anche qua non niente di particolarmente nuovo, sull'ipotesi di Eurobond, mentre la Merkel dall'altra parte difende a spada tratta il paese dall'accusa di avere un surplus delle partite correnti eccessivo, e aggiunge, insomma, sull'eccesso di rigore. Interessante questo, perché oggi Rehn è tornato a richiamare i tedeschi dicendo insomma sarebbe il caso che si aumentino i salari e in questo modo poi si spinga la domanda interna dell'Europa tutta. La Merkel di fatto risponde dicendo: a volte sorprende il tenore di certe discussioni, dobbiamo rientrare sotto il 60% di debito rispetto al PIL, abbiamo 10 anni di tempo ed è quello che stiamo facendo, no? Ma diciamo che vedo più sintonia fra la Merkel e Draghi in un certo senso. La Merkel ha detto: un po' assurdo pensare di risollevare l'Europa rendendo meno competitiva la Germania. In fondo Draghi adesso ha la stessa cosa, e forse ha dato un taglio leggermente più ottimistico dicendo: beh, in fondo se la Germania è un modello, stiamo vedendo che altri paesi stanno recuperando competitività e in fondo qualche segnale di progresso da questo punto di vista c'è, quindi su questo vedo una sintonia Draghi-Merkel. Sul fatto che i salari non crescono in Germania, in effetti non crescono, però la Merkel ha anche fatto capire, anzi ha detto abbastanza esplicitamente oggi, che questo negoziato per formare il governo non si concluderà finché i socialdemocratici non avranno avuto quello che è il loro primo obiettivo in questa trattativa, cioè la creazione di un salario minimo nazionale per legge a 8,50 euro, e quindi insomma in pratica la Merkel ha concesso che se vuole fare un governo dovrà dare questa cosa ai socialdemocratici che lei in campagna elettorale aveva definito un controsenso, quindi qualcosa si muoverà anche su questo fronte. Gli Eurobond proprio sono morti e sepolti. E dunque, parliamo degli stati generali della cultura organizzati dal Sole 24 Ore nella nostra sede qua a Milano. Un'idea d'incontro nata dopo il Manifesto della Cultura del 2012, della prima edizione dell'evento, al quale partecipò anche Giorgio Napolitano. All'organizzazione dell'evento partecipa anche la Fondazione Roma. È intervenuto in videoconferenza il Presidente del Consiglio, Enrico Letta, tra le altre cose ha lanciato l'idea di una capitale italiana annuale della cultura. Sentiamolo. L'idea alla quale l'abbiamo lavorato e che sarà messa nel prossimo provvedimento urgente di legge è di far nascere il progetto Capitale Italiana della Cultura annuale, cioè il progetto di individuare con un stanziamento pubblico che faccia da abbrivio di questo progetto, un percorso che consenta ogni anno di scegliere, attraverso ovviamente una commissione dentro la quale facciano parte i maggiori rappresentanti del mondo della cultura del nostro paese, scelga tra vari progetti che vengano presentati il progetto di una città che in quell'anno diventi la capitale italiana della cultura, che faccia ovviamente da volano di iniziative, un modo per mettere le città italiane in concorrenza tra di loro e un modo soprattutto per stimolare i privati. Io vorrei vedere tanti privati italiani che nella loro città, invece di investire soltanto sulla squadra di calcio locale o sulla squadra di pallacanestro locale o sulla squadra di pallavolo locale, investano sul progetto della capitale nazionale, della capitale italiana della cultura. E parliamo di questo incontro di oggi con uno dei relatori, Marco Magnani, Senior Research Fellow all'Università di Harvard. Buonasera. Buonasera. Autore tra l'altro di un libro che uscirà a breve, 7 anni di vacche sobrie. Si parla di 6 vie alternative alla crescita e tra queste 6 vie è compresa proprio la cultura, cultura naturalmente in senso lato. Un asse portante appunto proprio per la crescita. Ci spiega Magnani come? Sì, ha detto benissimo, cultura in senso lato, perché quando noi parliamo di cultura tendiamo sempre a riferirci esclusivamente allo straordinario patrimonio artistico, culturale e ambientale che abbiamo in Italia, che è sostanzialmente la metà di quello mondiale. Questo è effettivamente un giacimento petrolifero, come qualcuno lo definisce, che può essere sfruttato anche dal punto di vista di sviluppo e di crescita economica. Però cultura in senso lato vuol dire molto di più. A me piace definire la cultura con 3 aree differenti. La prima appunto quella del patrimonio storico-artistico di cui abbiamo detto, ma gli altri 2 aspetti molto importanti in cui l'Italia è molto forte, ha un grande potenziale, sono la cultura cosiddetta materiale e quella dei contenuti. E dico brevemente, quella materiale è la moda, il design, l'industria del gusto, quella dei contenuti è la radio, la televisione, la radio che fate voi, la televisione, il cinema, l'editoria e il software. Queste 3 aree insieme costituiscono un volano di crescita economica enorme. L'Italia, ricordiamolo, è fortissima in tutte queste aree. Ci dà qualche numero, un po' una dimensione di tutto questo? Certo, ecco, nel senso diciamo più riduttivo, quindi soltanto nel patrimonio artistico culturale, a livello europeo la cultura conta per il 4-5% del PIL dell'Unione e per il 3% dell'occupazione. Se estendiamo la definizione, come abbiamo detto, arriviamo al 7% degli occupati. L'Italia, dicevo, è particolarmente forte perché l'Italia, se uniamo la cultura a quello che io chiamo il settore creativo, è il 5° esportatore al mondo di attività creative, con circa 40 miliardi, e ha, e questo è molto interessante, un saldo positivo della bilancia commerciale di 23 miliardi. Dopo la filiera meccanica, che è la nostra eccellenza, che ci consente di avere un surplus di 50 miliardi di euro, il secondo settore che ci dà surplus della bilancia commerciale è quello della cultura e del settore creativo. A livello più generale, vorrei capire se secondo lei dal punto di vista normativo c'è, so che insomma poi il discorso è complesso perché le normative che riguardano i beni culturali sono forse tra le più complicate di questo paese, insieme a quelle fiscali, e questo lo diciamo sempre, non manchiamo mai di dirlo. Se secondo lei si può fare qualcosa anche per spingere la famosa partnership tra pubblico e privato, che ad alcuni suscita orrore ma che in tutto il pianeta viene utilizzata per lo sfruttamento appunto del patrimonio artistico e culturale. Ha detto bene lei, potremmo banalmente cominciare da una legislazione fiscale che sia di maggior incentivo, ad esempio, a quello che è il sostegno privato alla cultura. Il sostegno privato si può articolare in varie forme, quello del finanziamento, quello della sponsorizzazione, quello di un sostegno filantropico, ma in Italia la legislazione fiscale non consente particolari vantaggi. In questo senso il modello degli Stati Uniti, che conosco abbastanza bene, può essere invece molto utile, perché il privato cittadino che desideri finanziare e sostenere la cultura, sia questa un teatro lirico o un museo di arte, ne ha un vantaggio fiscale notevole, che naturalmente aiuta molto le cose. Quindi forse avremo qualcosa da imparare in questo senso. E avremo anche da imparare, e qua chiudiamo, dal lato dello sfruttamento di quello che abbiamo, che è oggettivamente scarso. Lei porta l'esempio degli Stati Uniti, lei negli Stati Uniti ci vive del resto, no? Se vuole, è quasi un luogo comune, che si dice in Italia. Beh, negli Stati Uniti hanno una costruzione di metà 800 e ci costruiscono intorno un intero sistema culturale di attrazione turistica. Noi, pur con i beni che abbiamo, questa cosa non la riusciamo a fare. Sì, io direi, per fare un esempio, siccome si è parlato prima di cultura come petrolio, cioè la cultura del petrolio italiano, direi gli Stati Uniti hanno meno cultura di noi, quindi hanno meno giacimenti, però lo sanno estrarre meglio e lo sanno anche raffinare meglio, e quindi rende di più. L'Italia ha questi giacimenti sterminati di questa cultura petrolio, però abbiamo da imparare come estrarlo e come raffinarlo. Faccio un esempio, che è quello del turismo, che a tutti sembra che il turismo sia facile da diciamo, con un patrimonio culturale come quello italiano sembrerebbe immediato poter sfruttarlo dal punto di vista turistico. In realtà, come dicevo prima, abbiamo moltissimo da imparare. Teniamo presente che, pur avendo il 50% del patrimonio artistico culturale mondiale, l'Italia ha la metà circa, poco più della metà, dei turisti di un paese come la Francia. Abbiamo circa 10 milioni in meno di turisti rispetto alla Spagna. Dicevo prima, nei 20 musei più visitati al mondo non ce n'è uno solo italiano, ad eccezione dei musei vaticani, che però tecnicamente non è un museo italiano. Gli Uffizi, il primo museo italiano per numero di visitatori, è al 21esimo posto. La cosa che ci deve sorprendere e un po' scandalizzare non è tanto che il numero uno sia il Louvre, che tutti sappiamo è un museo straordinario, ma che nei primi 20 ci siano ben due musei della Corea e uno di Taiwan. Non è concepibile che gli Uffizi siano al 21esimo posto. Grazie a Marco Magnani, Senior Research Fellow all'Harvard University, autore di 7 anni di Vacche Sobrie, nel quale si raccontano 6 vie alternative alla crescita, tra cui c'è anche la cultura, per essere stato con noi e anche per la relazione che ha fatto agli Stati Generali della Cultura organizzati dal Sole 24 Ore. Buonasera. Buonasera, grazie. Intanto, proprio dagli Stati Generali della Cultura, sta continuando a parlare il Presidente del Consiglio, Enrico Letta. Dice: il primo taglio dovrà essere la spesa pubblica per il funzionamento della macchina, con i conti dei ministeri, della politica, di ciò che è stato ridondante. Dice ancora: a Cottarelli sono stati dati pieni poteri. Parla anche il presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi. Dice: c'è molta inquietudine e nervosismo nella nostra base. Anticipo a Enrico Letta che invieremo una lettera nella quale indichiamo gli elementi fondamentali che dovrebbero essere presi in considerazione nella stesura definitiva della legge di stabilità. Ed è veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Un ringraziamento a Paolo Corleoni in regia, Mauro Del Corno e Alessandro Jacopini in redazione. Un grazie a tutti voi per l'ascolto. Ci sentiamo domani con Effetto Giorno alle 13, poi domani alle 17 dovrebbe tornare Sebastiano Barisoni. Radio 24. La passione si sente.